Che cosa alla fine determina cosa diventiamo e dove andiamo nella nostra vita? La risposta è una sola: le nostre decisioni. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni. E poi quest'ultima, bellissima. La vita è per il 10% quello che ti accade e per il 90% come reagisci. Queste, come migliaia di altre frasi motivazionali, tendono a far emergere il nostro potenziale. Rischiano però di farti dimenticare una cosa altrettanto vera. Se tu puoi reagire a quello che ti accade, è solo perché hai la fortuna di saperlo e di poterlo fare. E la fortuna non dipende da te. Cosa intendo per fortuna? Una delle più grandi menzogne del nostro tempo è il fatto di farci credere che noi siamo indipendenti, che l'indipendenza è la base di tutto. L'idea, cioè, di poter vivere facendo appello soltanto alle nostre forze. L'idea è che possiamo essere qualunque cosa vogliamo, chiunque vogliamo diventare. Basta volerlo e raggiungeremo il nostro obiettivo. Dimentichiamo così alcune realtà fondamentali che sono sotto gli occhi di tutti in qualunque momento della nostra vita. Ve ne vorrei proporre quattro. Prima verità: la nostra vita dipende in tutto e per tutto dagli altri. Chi ha costruito la casa nella quale vivi? Chi ha cotto il pane che oggi mangerai? Chi ha progettato ed ha assemblato pezzo per pezzo lo smartphone o il computer che adesso stai usando per vedere questo video? Quando premi l'interruttore, quante menti, quante invenzioni, quante persone, quanta manodopera più o meno qualificata ha contribuito perché tu anche alle 11 di sera possa leggere un libro sotto la luce di una lampadina? Seconda verità, spero che nessuno si offenda, ma ciò che siamo oggi dipende solo in minima parte dalle nostre qualità. Molto di più dipende da chi ci ha preceduto e da chi ci ha dato la possibilità di poter essere chi noi oggi siamo. Vi sarà venuta in mente la vostra famiglia, ma dipende anche dalla fortuna. Se tu sei ingegnere, è perché ci hai messo del tuo, sicuramente, hai studiato, ti sei impegnato. Ma se hai potuto farlo è perché la lotteria della vita ha estratto il tuo nome in questa città, in Occidente, con quella famiglia. Se invece tu, con le tue stesse identiche qualità, fossi nato in Africa, in una baraccopoli a ridosso di una grande metropoli, sotto una grande discarica, oggi chi saresti? Terza verità, siamo tutti estremamente fragili e vulnerabili. A volte ci basta un po' di stanchezza per mettere il nostro cervello completamente fuori uso. Se arriva poi un'influenza particolarmente forte, comprendiamo come tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Forse specialmente noi maschi, ci è forse successo più di una volta qualcosa di questo tipo. Tesoro. Chiama mia madre. Quarto, amare qualcuno. Essere amici profondamente di qualcuno significa riconoscere di essere profondamente dipendenti dall'altro. La dipendenza dell'adulto maturo consiste nel riconoscere che non siamo in grado di darci la felicità da soli, ma dobbiamo reciprocamente venirci incontro per renderci felici gli uni gli altri. Per tutti questi motivi non dovremmo mai dimenticarci questa grande verità. Gli altri sono il dono più grande che abbiamo. Quanto tempo investiamo a curare le relazioni importanti della nostra vita? Sia quei legami che fondano profondamente la nostra esistenza, non ultimo il legame con Dio, sia tutti quei legami deboli di cui beneficiamo ogni giorno, tante volte senza neanche renderci conto, e per i quali non avremo mai abbastanza consapevolezza e gratitudine. Le persone intorno a noi sanno di essere così importanti per noi? Abbiamo l'umiltà e il realismo per dirglielo e farglielo capire un po' più spesso?